con Mariano Aprea, regista del film Jeanne, in prima nazionale al Farnese, martedì 11 giugno 2019. Mariano, ben trovato. Buonasera, ben trovati voi. Lo raccontiamo brevemente? Sì, volentieri. Allora, l'idea di questo film nasce alcuni anni fa, quando cercavo di trovare il modo di esprimere, diciamo così, il mio disagio nei riguardi della crisi economica corrente determinata dalle vicende del 2008. E trovai, grazie al suggerimento di un carissimo amico, la Santa Giovanna dei Macerie di Brera, che pensavo di mettere in scena in teatro. Quando mi accorsi che erano 27 attori, mi resi conto che non potevo metterla in scena per mancanza di fondi. A quel punto, un altro caro amico, Alessandro Giordani, mi disse: "Ma perché non ne facciamo un film?" Allora mi venne l'idea di fare un film sulla difficoltà di mettere in scena la Santa Giovanna dei Macelli. Ed ecco qui che abbiamo iniziato 4-5 anni fa, piano piano, senza particolari fondi e con il grande aiuto di molti amici molto bravi, a costruire questo filmato che si costituisce di scene di prova, di dialoghi con gli attori e di scene propriamente di fiction. Messe un pochino insieme in un modo tale da poter, come dire, far dialogare il momento attuale delle difficoltà oggettive che si hanno nel rappresentare qualcosa con la vicenda di cui tratta Bertolt Brecht all'interno della Santa Giovanna, che è la crisi del 29, è ambientata a Chicago all'interno del mercato della carne. All'interno di questo mercato della carne c'è questa giovane donna che si chiama Giovanna Dark. Questo nome del personaggio è ispirato chiaramente alla Giovanna d'Arco e fa, come dire, la soldatessa dell'esercito della salvezza, che nel testo di Brecht si chiamano Cappelli Neri. Ebbene, questa fanciulla giovane e fervente parte da una posizione di fede cristiana molto profonda, essendo commossa dalla povertà e volendo quindi aiutare i poveri. E però non dando la colpa a qualcuno in particolare, pensando che le vicende della vita sono complesse e difficili e bisogna farvi fronte. Nel percorso che fa, conoscendo tutti i grandi produttori di carne di Chicago, perché lei si interessa a queste vicende, scopre che invece c'è ben altro alle spalle di questo grande disagio, della disoccupazione, dell'inflazione e quant'altro fosse. Ed ecco quindi che prende coscienza in modo completamente differente, ponendo sotto critica i sistemi, diremo così, di ripartizione della ricchezza, che vigevano allora e, ahimè, vigono anche adesso. Mariano, cosa avevi apprezzato del testo di Brecht? In modo molto poetico, con grande sapienza drammaturgica, riesce a fare un'analisi tecnicamente inappuntabile da un punto di vista economico. Cioè, lui capisce che il capitalismo è un sistema votato alla crisi ciclica e questa crisi ciclica non guarda in faccia a nessuno. E generalmente l'idea dell'ottenimento di un benessere economico non ha assolutamente nulla a che fare con quello che diceva Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni. La ricchezza che si ripartisce male crea milioni di infelici e questi infelici non si riescono a riavere. Ecco, questo è un po' il discorso che è molto forte in Brecht, oltre ad essere molto umano. Rispetto alla trasposizione, su cosa hai voluto operare? Ho cercato di fare una doppia operazione: da una parte far vedere quanto sia complicato e difficile mettere insieme con poche sostanze, diremo così, materiali, una vicenda rappresentativa, sia essa votata al teatro che votata al cinema, e dall'altra parte metterla in comunicazione col problema della crisi economica propriamente detta e quindi fare anche vedere come gli attori piano piano si avvicinano, per quello che mi fosse possibile, al personaggio, cercano di capire come realizzarlo e cercano di capire qual è l'attualità di quello che fanno all'interno proprio del proprio periodo storico, della propria contemporaneità. Ci sarà questa prima nazionale in vista di una distribuzione? Allora, il discorso della distribuzione distribuzione è un discorso che stiamo facendo in fieri. Noi abbiamo la gioia di poter proiettare questo film a Farnese l'11 e questo è un primo passo. E si sa, se coloro che sono all'interno del campo cinematografico, teatrale, sanno quante siano le difficoltà produttive o distributive, tanto più se insomma non fai parte, diremmo così, del mondo maggiormente conosciuto, e se presenti un cinema o comunque un'opera, diremmo così, non commerciale, quindi ci sono tutti questi aspetti. Io mi auguro di trovare un buon dialogo, abbiamo avuto un primo approccio con una piccola casa distributiva, vediamo quello che succede. Certo, il mio desiderio è che questa opera possa vivere, questo è fuori di dubbio. La proiezione sarà la vostra presenza, tua e del cast? Mia e del cast presenteranno il film Mario Setti e Attilio Scarpellini. E Mario Setti si occuperà di presentare la parte cinematografica e Attilio Scarpellini quella di derivazione teatrale. E allora ricordiamo la prima nazionale del film Jean al Cinema Farnese a Roma, martedì 11 giugno 2019. Mariano, in chiusura, ci sono dei riferimenti internet che ci puoi lasciare? Noi abbiamo aperto una pagina Facebook dell'evento, ma io credo che lo si trovi digitando Jean che è Cinema Farnese. Perfetto. Questo credo che lo si possa trovare in questo modo. E l'orario bisogna dire, l'orario è le 21. Perfetto. E allora un saluto e un ringraziamento al regista Mariano Aprea. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Credi il lupo. Grazie tante, arrivederci.